I've changed the schedule for this evening just to give us a bit more time, so we're not rushed in the evening. Stasera abbiamo cambiato l'orario, cominciamo un pochino prima per non per avere un pochino più di tempo durante la serata. So I'd like to begin as usual by asking for any questions that might have arisen from the practice. It's surprising, but everybody has very similar problems. E quindi, come al solito, vorrei partire chiedendo se ci sono delle domande sulla pratica di questa giornata. Sembra incredibile, ma spesso i problemi delle persone sono molto simili. Sì. Quando utilizzo la nota mentale per entrare, ad un certo punto mi sono reso conto che invece di seguire il respiro, era il respiro che seguiva la nota mentale. Allora ho abbandonato la nota mentale e sono entrato nella sensazione. Yes. So he noticed that while he was labeling the rising and falling, at a certain point he was kind of, his mind was following the label more than the breath itself. So then he let go of the label and went back to the sensations in his abdomen. La domanda è, una volta che sono entrato, diciamo, più sottilmente, devo continuare nell'ascolto, devo, come dire, riprendere a notare in maniera differente? So his question is, once he has contacted this his sensations of the breath in a deep way, should he continue, should he go back to the labeling? In a different way? Yeah. No, when that happens, this intuitive awareness is again confused with the thinking mind, you see. Quando ciò accade, questa intelligenza intuitiva di nuovo diventa un po' confusa con la mente pensante. And so really it's a case of displacing your attention back onto the sensations and not the word. E quindi si tratta proprio di trasferire la propria attenzione alle sensazioni e quindi toglierla dalla parola. So we keep the word going, but as it were, we remake our contact with feeling, sensations. Quindi continuiamo magari con questa nota mentale, però ricontattiamo le sensazioni. Mm. And there's a feeling that the word is perhaps coming from behind. E a questo punto c'è come la sensazione che la parola venga da dietro. Mm. So this means that this intelligence is in front of the intellect, if you see what I mean. Allora questo significa che questa intelligenza intuitiva è come se fosse davanti all'intelletto. Mm. Now, if one, you know, arrives at a place in the breath and everything is calm, it can be that the noting, as it were, becomes an obstacle for going deeper. Se uno arriva a una situazione di calma mentale ed è in contatto col proprio respiro, allora può essere che effettivamente la nota mentale può rappresentare un ostacolo. So at that point one can try to leave the noting and just see if one goes deeper. A questo punto uno può lasciar perdere l'etichetta mentale e vedere se si riesce ad andare più in profondità. If when you do that the mind starts wandering, then you know actually the concentration was not as good as you thought it was. Se facendo così notate che la mente riprende a divagare, allora questo vi fa capire che forse la concentrazione non era così profonda come pensavate. And so we begin the noting again. Allora si ricomincia con la nota mentale. There are two stages of concentration. Ci sono due fasi nella concentrazione. What's it called? Access. No, I'm thinking of the words. Doesn't matter. In the commentaries they give an image. Nei commentari danno una immagine. Mm. It's of a bee flying around the flower. È quella di un'ape che vola intorno al fiore. So at this point the meditator feels sort of concentrated, but there's still things going on, as it were, a little bit, which can drag them away. Quindi a questo punto il meditante si sente concentrato, però ci sono ancora tante cose che girano che in qualche modo lo distraggono, lo portano via. But it feels good, it feels concentrated. Però si sente bene, si sente concentrato. But so then the meditator drops the noting and the bee flies away. E però a quel punto allora il meditante lascia perdere il notare, la nota mentale e l'ape però vola via. So then you have to bring the bee back. No, bisogna continuamente riportare questa ape al fiore. So the noting entity. But then sometimes people experience it as a drop. Ma a volte le persone hanno questa esperienza come se ci fosse una caduta. And then there is the bee landing on the flower. Allora c'è l'ape che si posa sul fiore. Ah, so now when the meditator leaves the noting, the bee stays. E quindi a questo punto, se il meditante abbandona la nota mentale, l'ape rimane. And at that point, the meditator keeps driving the observation towards what they perceive is the center of the breath. E a quel punto il meditante continua a portare l'attenzione sempre più in profondità laddove ritiene che sia proprio il centro del respiro. So there may be still a feeling of somebody observing, somebody feeling, and so on. Ci può essere ancora questa sensazione di qualcuno che osserva, qualcuno che sente. But then there may be just little moments when there is a drop, as it were, and the self disappears, the sense of somebody disappears. Però ci può essere un momento in cui c'è questa sorta di sensazione di caderci dentro, e allora a quel punto il sé sparisce, questo qualcuno non c'è più. So this is the point of absorption, you see. E questo è il punto dell'assorbimento. And here things like, well, the impermanence can be more clearly seen. E qui si può vedere più chiaramente l'impermanenza. Was it Vitaka Vichara? Vitaka Vichara, grazie. She's my encyclopedia. In Pali si chiama Vitaka quando l'ape gira intorno e Vichara quando poggia sul fiore. La seconda domanda è sempre riferita. Nel momento in cui sono andato in profondità... Ti sei appoggiato sul fiore? Mi sono accorto che il respiro cadeva a sinistra, in un punto preciso a sinistra. So once he went more deeply into the breath, he noticed that his attention, or the breath actually, was more on the left. On the left, yeah. E il corpo destro era lontanissimo, cioè non c'era. The right part of the body was far away. Allora ho provato a spostarmi a destra, perché loro detto, ma sono io che posso, sono io che... E allora mi sono spostato a destra e a quel punto un mondo è ritornato. E poi alla fine mi sono messo al centro. Allora, non sapere se ci sono dei cartelli stradali. So then he moved to the right to see if he was doing something wrong, if he could direct the attention, and the whole world came back that had disappeared. So then he tried to stay in the middle, basically, and he was wondering if there were some signs that say where the attention should go. The attention goes where the object is most obvious. L'attenzione va laddove l'oggetto è più ovvio. Now, as we concentrate more and more on these sensations, you see. Man mano che ci concentriamo sempre di più su queste sensazioni, then there's not enough information coming into the brain-mind complex to keep the image of the body intact. Non c'è abbastanza informazione che entra praticamente nella mente che permetta di mantenere intatto questa immagine del corpo. So the mind then, first of all, begins to play tricks. Allora la mente comincia a fare degli scherzi. Your arm seems out here. Il braccio sembra là fuori. Your body is disappeared, you know. Il corpo sparisce. So these are signs of good concentration, not that you've lost the body. Questi sono segni di buona concentrazione, non che si è perso il corpo. And of course, when you move from the left to the right, you immediately woke up all the sensations that re-establish your body. Quando ti sei spostato dalla sinistra alla destra, tu hai risvegliato tutte le sensazioni che compongono il tuo corpo. Often when for a new meditator, when this happens the first time, it can be a bit of a shock. Per un meditante principiante, quando questo succede la prima volta, può venire un po' come uno shock. So if wherever we feel the breath, if it's, you see, the mind is trying to work out from the little bit of sensations coming in where the breath is. La mente sta cercando di capire da quelle poche sensazioni che entrano dove si trova il respiro. So then it tells you it's on the left. Allora si dice, ah, è lì sulla sinistra. So the body is breathing here. Il corpo respira lì. So then you think, that's interesting. So but you keep just with the sensations of the breath wherever it is, you see. Devi stare con le sensazioni del respiro ovunque esso sia. And then eventually one loses, one just knows the breath. So. E poi alla fine si arriva a conoscere semplicemente il respiro, basta. And it's also possible that for those of you who have good concentration, that the breath begins to turn into a sort of light, like cotton wool. Potessi per quelli di voi che hanno una buona concentrazione, arriverete a un punto in cui il respiro si trasforma in qualcosa di molto leggero, so, come se fosse un mattufolo di cotone. And if you keep watching that, it'll brighten up into a light. E se continuate a vederlo, diventerà una luce. So this is known as a nimitta in the language of the Pali. E questa si chiama un nimitta. So this is still an object to watch, really go into it. È ancora un oggetto da osservare, bisogna proprio andarci dentro. Is the light constant or is it flickering? La luce è costante oppure traballante? So you keep driving, is it? Quindi uno continua a portare la mente sempre più vicino. Sayadaw Pandita used to use the words to plunge into the object. Sayadaw Upandita usava proprio questa espressione come il tuffarsi, diciamo, più che tuffarsi proprio cadere a peso morto, diciamo, nell'oggetto, no? Yeah, to plunge in. As if you were diving into a pool, you know? Sì, come se vi tuffaste in una piscina. Sì. Volevo sapere se la prima risposta che ha dato vale anche per la camminata, cioè il passaggio dalla etichettatura alzare, avanzare, abbassare e lasciarla perdere e riprenderla qua a seconda della concentrazione. So what you said, the answer you gave about letting go of the label when you feel that you're in touch with the sensation, is it true also for the walking? Don't think it it might happen. Sì, it potrebbe might. Succedere anche con la That you feel your concentration is so clear and still that you can let go of the noting, yeah. Che la concentrazione è così ferma, così stabile, che puoi lasciar perdere la nota mentale. Sì. The noting technique is just to get us to a place where the noting is not needed. La tecnica della nota mentale è solo per portarci ad un punto dove non serve più, non è più necessaria. Ma la nota mentale della camminata è alzare, avanzare, abbassare, giusto? The noting and the walking is lifting, pushing, dropping. Yeah, lifting, moving, placing. Sì? Sì. That's on the board, no? I took it off, actually. Was it? I thought it was just for the beginners. Ah, ok. Era appeso fuori, poi l'ho tolto per far spazio ai colloqui. The exact word, remember, doesn't matter as long as it generally matches what you're doing. Quindi la parola effettiva non ha importanza, l'importante è che corrisponda a quello che state effettivamente facendo. I think it would be counterproductive to say banana. Sarebbe controproducente dire banana, banana, banana. You can try. Potete provare. Sì. Forse una domanda scema, ma la nota mentale la ripeto solo due volte e poi aspetto di vedere cosa accade ed eventualmente la ripeto, oppure la ripeto di continuo? So how often should she repeat the label? No, it's continuous. Ah, okay. Continuous. The speed depends on your ability to stay with the object. La velocità dipende dalla tua abilità di stare con l'oggetto. E anche sul respiro, quindi anche mentre ascolto il respiro e mi concentro sul respiro, dico respirare, cioè alzare, Sì. If the mind is very restless, you might want to note a little faster, just to stop the mind getting caught up. Se la mente è molto irrequieta, potreste voler notare un pochino più velocemente per impedire alla mente di volare via. Mm. And it's the same with dullness and lethargy. If there is a little bit of dullness and lethargy about, then you might want to also quicken up. Anche se c'è questa sonnolenza, potreste voler accelerare per svegliare la mente. But remember, these are hindrances which really we ought to investigate. Ricordate che questi sono ostacoli, quindi l'irrequietezza, sonnolenza, che in realtà vogliamo proprio conoscere, investigare. Quindi li nomini. Nel momento in cui ti accorgi, nomini l'irrequietezza. So you label restlessness. Sì. Restless. Very good. See, va bene. Okay. So this evening, really, we have to, for some of us, revise and for others, be introduced to the spiritual faculties and the factors of enlightenment. Questa sera faremo un ripasso per chi le conosce già e un'introduzione per chi non le conosca, le facoltà spirituali e i fattori dell'illuminazione. Mm. So this is the bright side of our meditation. Questa è la parte, come dire, più positiva della nostra meditazione. Which occasionally arises. Che ogni tanto sorge. So, the five spiritual faculties are faith. Allora, sono cinque le facoltà spirituali, che sono la fede, concentration, concentrazione, awareness, la consapevolezza, effort, sforzo, and wisdom, e la saggezza. And the seven faculties are is awareness. Le sette invece fattori di illuminazione, fattori di illuminazione sono la consapevolezza, concentrazione, effort, lo sforzo, interest, l'interesse, calmness, la calma, equanimity, l'equanimità, investigating the Dhamma, e l'investigazione del Dhamma. So somehow we have to dovetail these, put them together so we can see the connections. E quindi dobbiamo un attimo metterli in parallelo per vedere in che modo si collegano. Mm. So the basis of all our practice is this confidence. Quindi la base di tutta la nostra pratica è questa fiducia. Mm. And the word faith often is confused with the word belief. Perché la parola fede spesso viene confusa con una credenza. Mm. So the Buddha definitely does not want us to believe a word he says. Il Buddha sicuramente non vuole che crediamo a nessuna parola che lui dica. Everything is put to us as a proposition. Tutto ci viene posto come una proposition, come proposition. Una cosa da verificare, no? Una teoria. It's a theory which we have to prove for ourselves. E noi la dobbiamo dimostrare per noi stessi. Because the whole process of liberation is self-attained. Perché tutto il processo di liberazione è una cosa che otteniamo da soli. The Buddha cannot help us to attain the actual process of liberation. That's all our own work. Il Buddha non può aiutarci a ottenere questo processo di liberazione. È un lavoro tutto nostro. Mm. And if we think that just by believing what he says, that would actually advance us, it may work against us. Se noi pensiamo che semplicemente credendo a quello che il Buddha dice possa favorire il nostro avanzamento, beh, questo potrebbe in realtà andarci contro, potrebbe essere controproducente. Because it's very easy for us to believe that once we've understood something deeply, we actually know it. È molto facile per noi credere che una volta che crediamo in qualcosa profondamente, noi la conosciamo. We sometimes confuse intellectual understanding with direct experience. Confondiamo questa comprensione intellettuale con la diretta esperienza. Mm. There was a very famous teacher, it seems, whose students all became fully liberated. C'era un insegnante molto famoso che pare che tutti i suoi studenti raggiunsero la completa liberazione. Mm. And after a time he said to himself, how is it all my students are liberated and I'm not? A un certo punto lui comincia a chiedersi, ma com'è che tutti i miei studenti sono pienamente illuminati e io no? So he took a very humble decision. He says, I'll go and talk to my students. Allora ha preso una decisione molto umile e disse, beh, vado a parlare con i miei studenti. And so he approached one student, and as the student saw him coming, he thought to himself, my teacher is too intellectually conceited, I'm not the one, I can't help him, I shall send him on to the other student. E allora andò da un primo studente che quando l'ho visto avvicinarsi dice, beh no, il mio insegnante è troppo presuntuoso, intellettuale, lo mando ad un altro studente. And so he went from student to student. E quindi è andato da uno studente all'altro. Until he came to one student and said, who said to him, I've got the teacher for you. Finché è arrivato ad uno studente che gli disse, ah, io ho l'insegnante che fa per te. And he introduced him to a 10-year-old boy. E l'ha presentato ad un bambino di 10 anni. So he had to swallow his pride. Dovette ingoiare il suo orgoglio. And the little boy took him to an ant hill. E il bambino lo portò ad una tana, un formicaio. Mm. And now, when the ants leave an anthill, it often becomes a home for a snake. Quando le formiche lasciano il loro formicaio, questo diventa un riparo per i serpenti. Mm. So the little boy took him to this hill and asked him, if this hill has six holes, how would you get the snake out? Allora il bambino lo portò a questo formicaio e gli chiede, se questo formicaio ha sei buchi, come si fa a far uscire il serpente? So the teacher, you just plug up five holes. Allora l'insegnante dice, beh, ovviamente chiudi cinque buchi. So the little boy said, this is what you must do. You must close down the five senses and watch the mind. E il bambino ha detto, e tu devi esattamente fare questo, devi chiudere, tappare i cinque sensi e osservare la mente. And he became fully liberated. E così anche lui divenne pienamente illuminato. All the stories end up wonderfully. Tutte le storie finiscono bene. I had a meditator who said to me that when he wanted to climb a mountain, he would imagine it. Everything that he would need, the steps taken, the visualizations, so much so that after he had completed the visualization of climbing a mountain, he no longer wanted to climb it. C'avevo uno studente che mi diceva che lui prima di scalare una montagna si visualizzava nei dettagli tutto il percorso, quindi tutta la scalata e l'arrivare fino in cima. And he imagined himself doing it. E si immaginava mentre saliva questa montagna. E alla fine di tutta questa visualizzazione gli passava la voglia di scalare la montagna. A confusion between being able to visualize and understand something and the actual experience. E quindi la confusione tra immaginare qualcosa, pensare di conoscerla e l'effettiva esperienza. There was a monk in the Buddha's time who was extremely good at explaining the Dharma. C'era un monaco ai tempi del Buddha che era estremamente bravo a spiegare il Dharma. But the Buddha called him empty Pucilla. Empty Pucilla. Ma il Buddha lo chiamava Pucilla vuoto. Ah, because he had no spiritual experience at all, but he was very clever. Non aveva nessuna esperienza spirituale, ma era molto intelligente. Ah. So the idea of believing is not something that would particularly help us. Quindi questa idea del credere a qualcosa non è qualcosa che ci possa aiutare. But confidence is something else. Invece questa fiducia, sicurezza, si può dire, no, fiducia, è un'altra cosa. And the Buddha does say that one approach is through understanding. E il Buddha dice che un approccio era proprio attraverso la comprensione. So we first of all hear about the Dharma and it draws our attention. Quindi innanzitutto interest. Ascoltiamo il Dhamma e questo attira il nostro interesse. We then read about it and we think about it and it becomes our own intellectual property. E poi leggiamo il Dhamma e diventa in questo modo la nostra proprietà intellettuale. Mm. But unless it goes into vipassana mayapanya, the wisdom of insight, then it won't have a great effect on our lives. Ma finché non va nella vipassana, cioè la saggezza, wisdom of insight, la saggezza degli insights, cioè delle intuizioni profonde, beh, non diventerà una vera conoscenza. Mm. Actually, you can extend the vipassana mayapanya, the wisdom by way of wisdom by way of insight, also into action. Quindi questo mayapanya, che sarebbe la saggezza attraverso gli insights, si può anche trasferire nelle azioni. Mm. So for instance, it may be that through our understanding and our meditation, we see that everything is dependent on one thing. Nothing arises by itself, everything is interdependent. Per esempio, potremmo cominciare a vedere attraverso la nostra pratica che non c'è nulla che sorga per proprio conto, che tutto è interdipendente. Mm. But on the other hand, we can approach the same understanding through the heart by way of love and compassion. Ma possiamo arrivare alla stessa comprensione con il cuore attraverso l'amore e la compassione. Mm. So the interconnectedness of the hearts that we have is also part of the Buddha's teachings. Eh? Anche questa interconnessione tra cuori che noi abbiamo, anche questo fa parte degli insegnamenti del Buddha. And this of course affects the way we act. E questo influisce sul modo in cui agiamo. This affects our attitudes. Influenza i nostri atteggiamenti. And so our wisdom grows, you see. E di conseguenza la nostra saggezza cresce. Mm. The other way that our confidence can grow is through a devotion. Un altro modo in cui la nostra fiducia può crescere è attraverso la devozione. There were people in the Buddha's time who even hearing about him had this enormous confidence. Ai tempi del Buddha c'erano delle persone che semplicemente sentendo di lui Hearing about him and what he taught, would have immediate confidence. Questo sviluppava un'immediata fiducia. Mm. Perhaps the most telling story concerns Bahir of the Bark Cloth. Sì, forse la storia più convincente a questo riguardo è quella di Bahia, who used to wear clothes made of bark. Che era un eremita, una asceta, che aveva i vestiti fatti di corteccia. Sì. And he lived like this for many years. He used to be, it seems, a rich merchant. Ha vissuto così per molti anni prima di fare questa scelta. Era un ricco mercante. So he heard about the Buddha. He was at a great, confidence. And when he approached the Buddha, he asked him for some instruction. E quindi lui aveva sentito parlare del Buddha e nacque questa grande fiducia e quando lo vide gli chiese delle istruzioni, degli insegnamenti. The Buddha said this wasn't the right time because he was going to go on arms round. E allora il Buddha disse, guarda, questo non è il momento giusto perché sto andando a fare l'acquesto. And Bahia said to him, look, I'm a very old man, I could die any moment, so, you know, take this opportunity to teach me. E Bahia gli disse, dai, per favore, io potrei morire in qualsiasi momento, prendi questa occasione per insegnarmi. Mm. So the Buddha said to him, in the seeing there's only the seeing. Allora il Buddha gli diede queste istruzioni, nel vedere c'è solo il vedere. In the hearing there's only the hearing. Nell'udire, solo l'udire. In the cognizing, there's only the cognizing. Conoscere, nella facoltà cognitiva, diciamo, c'è solo il conoscere. Mm. In the knowing, can you say? It's not quite that. It's the act of cognition. Quindi l'atto della cognizione. There's only the act of cognition. Quindi c'è solo l'atto della cognizione. Mm. And Bahia was immediately enlightened. Bahia immediatamente si illuminò. Sì. And the Buddha gave titles to various of his disciples. E il Buddha diede dei, come dire, dei titoli. Dei nomi, diciamo, a tutti i suoi discepoli. No, no, not everybody, most. La maggior parte dei suoi discepoli. So, to Sariputta, he gave the name General of the Dhamma. Sariputta, per esempio, era chiamato il generale del Dhamma. But to Bahia, he gave the student who became the quickest enlightened. Bahia lo chiamò lo studente che più velocemente si illuminò. So, there's also a heart thing about our connection to the teaching. Quindi c'è anche una questione di cuore nella nostra connessione con l'insegnamento. But seemingly not absolutely necessary. Ma non è necessario. But for those of us who are more devotional types, then to read about the Buddha's life does build up a certain connection. Però per quelli di noi che sono un pochino più devozionali, allora leggere per esempio la vita del Buddha, questo crea una connessione. And for those of you who are interested, contemplating the Buddha, the qualities that we chant in the morning. Quindi per coloro di voi che sono interessati, il fatto di contemplare le virtù o le qualità del Buddha, che è quello che facciamo al mattino con le recitazioni, can also lead to these inner ecstasies. Anche, cioè, questo può portare a queste estasi interiori. And this of course you find in especially in Christianity, because of Jesus as the guru. Si trova per esempio nel cristianesimo, dove si vede Gesù come il guru. So one creates. Yeah. Remember that whether our image of the Buddha has anything to do with historical Buddha is not important. Ricordate che la nostra immagine del Buddha, che abbia o meno una relazione con il Buddha storico, questo non ha importanza. No, the importance is that in the figure of the Buddha you see certain qualities that you breathe into yourself. La cosa importante è che uno veda nella figura del Buddha determinate qualità che in qualche modo respira dentro di sé. So, I don't think the Buddha looked anything like these statues that you see. Io credo che il Buddha non avesse assolutamente l'aspetto di queste statue che vediamo. For a start, he was bigger than that. Intanto era più grande di così. And this is, I don't know whether you know, but this was a Greek. The Greeks started the statues of the Buddha. Non so se lo sapete, ma sono stati i greci a cominciare a costruire le statue del Buddha. 500 years after he died. E questo 500 anni dopo la sua morte. So outside India, the first people to be converted to the Buddhist understanding were the Greeks. Quindi fuori dall'India, il primo popolo a essere convertito, diciamo, agli insegnamenti del Buddha sono stati proprio i greci. The Greeks who had gone up into, after Alexander's empire, into Pakistan, Afghanistan. Perché dopo l'impero di Alessandro, i greci andarono in Pakistan, Afghanistan. That's where you still get the statues, of course. E lì si trovano ancora molte di queste statue. Have you seen the, quello. This is a Greek statue. Quella è una statua greca. And the reason he has this on top is because Greek nobles had hairstyles like that. Il motivo per cui ha questo, si chiama crocchio, sulla testa è proprio perché i nobili greci avevano questo modo di portare i capelli. And that became then on all Buddha statues that you see, he's always got this lump on his head. E quindi è per questo che in tutte le statue del Buddha vedete che c'è questo vernocolo. And in the Thai statues you see they turn it into a flame. Nelle statue thailandesi l'hanno trasformato in una fiamma. But actually he would look like me. Ma nella realtà avrebbe più un aspetto come il mio. So faith is something that confidence is something that we can generate through our reading and through our connection with the Buddha as a historical personage. E quindi questa confidenza è una cosa che possiamo, questa fiducia è una cosa che possiamo costruire attraverso la lettura, per esempio la lettura della vita del Buddha, e questo contatto che riusciamo a creare con le qualità che esprimeva. If of course we don't have this confidence, then we begin to suffer from skeptical doubt. Se non ce l'abbiamo questa fiducia, allora cominciamo a soffrire del dubbio scettico. And so doubt, of, remember, is the great barrier to action. E ricordate che questo dubbio è una barriera verso contro, che ci impedisce di agire, diciamo. Now when he arrived at a village, this is a very famous scripture, he arrived at the village of the Kalamas. Il Buddha, si dice nella scrittura, che arrivò in un villaggio, quello dei Kalama. And the Kalamas say to him, one teacher comes and says this, and says that the other teacher's rubbish, and then he goes, and then another teacher comes and says, no, he's rubbish, and I've got the truth. So we're very confused. Allora i Kalama si lamentarono col Buddha dicendo che arriva un insegnante e ci dice che ha lui la verità in tasca, diciamo, che gli altri insegnanti dicono delle sciocchezze. Poi arriva un altro insegnante che ci dice che invece lui ha ragione e gli altri hanno torto. Allora chiedono al Buddha, siamo confusi, chi dobbiamo credere? And the Buddha says, you are right to be confused, O Kalamas. Il Buddha dice, O Kalama, avete ragione a essere confusi. And then he says, don't believe anything. E allora gli dice, non credete a nulla. Don't believe anything because of the teacher. You have confidence in the teacher. Non credete solo sulla base della fiducia che avete in un insegnante. No. Don't believe it because it's written in the scriptures. It's there because it comes from the old times, ancient times. Non credete a qualcosa solo perché è scritto nelle scritture che provengono da testi antichi. And don't believe it just because it makes sense. E non credete a qualcosa solo perché ha un senso. Only when you put it into practice and see what effect it has on you can you then have confidence in it. Solo quando lo mettete in pratica vedete che effetto ha su di voi, allora a questo punto potete avere fiducia in quella cosa. Yeah. And then of course he gives them the old Dharma. E poi naturalmente gli dà il buon vecchio Dharma. But he also, going back to what we were saying the other day, he also says in that discourse something to do with rebirth. Ma in quel discorso dice anche qualcosa che ha a vedere con la rinascita. So remember, people in those days also were materialists. Anche in quei tempi c'erano delle persone materialiste. So he said to them, okay. So he said to them, if there is a future life, then practicing the Dharma now, you will reap the benefits. Allora gli disse, se c'è una vita futura, allora se praticate il Dhamma adesso, allora coglierete poi i frutti di ciò nel futuro. But if there is no future life, then at least practicing the Dhamma now will help you to be happier. Ma e se non c'è una vita futura, comunque praticando il Dhamma adesso vi aiuterà ad avere una vita più felice. You'll reap the benefits of the Dhamma right here and now. E quindi potrete cogliere i frutti del Dhamma proprio nel qui e ora. Ah. This is true, no? E questo è vero. So that's faith. And faith and wisdom are connected. E quindi questa è la fede o fiducia, e la fede e fiducia è collegata con la saggezza. So the more understanding we have, the more the confidence grows. The more confidence we have, the more we're able to allow ourselves to investigate the Dhamma. Quindi più comprendiamo e più cresce la fede e fiducia, più c'è fede e fiducia e più ci permettiamo di conoscere ancora di più, di investigare il Dhamma. So now, from now on, the next spiritual faculties are the same as the factors of enlightenment. Quindi da adesso in poi i fattori spirituali, le facoltà spirituali sono le stesse dei fattori di illuminazione. So the only difference is this faith and wisdom. Quindi questi due fattori sono le facoltà, sono l'unica differenza. So now we have this combination of active qualities and passive qualities. E quindi adesso c'è questa combinazione di qualità attive e passive. And they have to be balanced. E in qualche modo devono essere equilibrate. Mm. So we have concentration, or the ability to keep the attention still and penetrate. Allora abbiamo la concentrazione, questa abilità di tenere l'attenzione ferma e stabile. And what we need for that is effort. E per poter fare ciò abbiamo bisogno dello sforzo. Now, if the concentration becomes, it does not have enough effort, but we are concentrated, then we will fall into a state of oblivion. Allora, se c'è la concentrazione ma non c'è sufficiente sforzo, allora cadremo in uno stato di oblio. Mm. This is very difficult to attain in a week, but it may happen. Eh? Questo è difficile da raggiungere in una settimana, ma può succedere. The meditator will look as though they are really on the ball. Il meditante avrà questo aspetto come se fosse veramente, come dire, on the ball. Are practicing wonderfully. Sì, veramente in gamba, sta praticando al massimo. Mi viene un'espressione in italiano. But actually he's unconscious. In realtà è completamente non cosciente. The concentration has the energy to keep a sort of awakeness within the mind to maintain the posture. Quindi la concentrazione è un'energia sufficiente per mantenere la postura. But because the effort's dropped, so there's a loss of awareness. Però siccome l'energia, quindi lo sforzo, è caduto, allora c'è una diminuzione della consapevolezza, della coscienza. Mm. And when the meditator wakes up, he can just continue meditating. It's not a problem. Il meditante si sveglia e continua a meditare senza problemi. But the meditator should say to themselves, I didn't give enough effort there. Però lì il meditante dovrebbe riflettere e dire a se stesso, non ho messo abbastanza sforzo. There's a story from the Hindu tradition. C'è una storia dalla tradizione indù. So a guru asks for some water. C'è un guru che chiede dell'acqua. And he goes into meditation and he goes into this state. Allora comincia la meditazione e entra in questo stato. 10 years later, he comes out. Ne esce fuori 10 anni dopo. And his first words are, "Where's the water?" E le sue prime parole sono, "Ma dov'è l'acqua?" Nothing's happened. Non è successo nulla. We cannot become fully liberated through oblivion. It's very simple. Non possiamo raggiungere la piena liberazione attraverso l'oblio. È molto semplice. On the other hand, if the energy is too strong, then we start getting restless and the mind won't stay still. Se l'energia però è troppo forte, allora cominciamo a essere irrequieti, la mente non sta ferma. Mm. So now, why is it that the energy drops or the energy is too much? Com'è che l'energia ha questo calo oppure è troppa? Mm. It's usually because of one of the hindrances. Di solito a causa di uno degli ostacoli. Either there's a little touch of boredom comes in. O subentra un piccolo, un sottile livello di noia. Mm. See, which we don't notice. Non la notiamo. Yeah? But it drops the energy. Ma ha questa capacità di far calare l'energia. Yeah. It's just slipped in ever so slightly the idea of achieving something. Oppure è entrata, si è infilata in maniera molto leggera questa idea del voler raggiungere o ottenere qualcosa. And then you get this little extra energy and the mind begins to shake. E questo quindi fa sì che ci sia un'energia eccessiva e la mente comincia a tremare. Now, the way I always think to get beyond these problems is to divert our effort towards interest. Il modo in cui io suggerisco di superare questi problemi è di girare l'attenzione verso l'interesse, spostare l'attenzione sull'interesse. So, here we have a passive concentration, an active effort. Quindi abbiamo una concentrazione passiva e uno sforzo attivo. And here we have an active interest and a passive calmness. Abbiamo un interesse attivo e una calma passiva. Mm. So, if you think about how, when you're doing something which you're interested in, which is just a hobby. Immaginate di fare qualcosa in cui siete veramente interessati, come un hobby. Mm. So there's nothing to be gained professionally, there's no money involved, it's just something you enjoy doing. Quindi non dovete guadagnare niente, non ci sono soldi coinvolti, non dovete ottenere nulla, lo fate solo per puro piacere. Mm. So, we're relaxed, eh? We're generally happy. Siamo rilassati, siamo felici. And we have a great interest in what we do. Abbiamo un grande interesse in quello che facciamo. Ah. So these are the qualities that we need to investigate the Buddha Dhamma. Queste sono le qualità necessarie per investigare il Buddha Dhamma. Mm. If we saw it as a serious hobby, we'd be better at it. Se noi lo vedessimo come un hobby serio, allora riusciremmo meglio. Ah. So again, these things corrupt. Anche qui queste cose si inquinano. So this curiosity can the calmness can be just a bit too calm, and again you fall asleep. La calma può essere un po' troppo calma e allora ci si addormenta. Or the calmness can begin to lose its calmness, too much energy in the calmness, and you become restless. Oppure la calma può diventare meno calma, cioè può esserci troppa energia e di nuovo si diventa un po' agitati. Ah, and again you'll find some hindrance in there. E anche lì, se guardate bene, ci sarà un qualche ostacolo. Ah. So to balance these things, you know, it's just being aware or being clear in our minds as to what right awareness is. E quindi bisogna equilibrare questi fattori e per fare ciò bisogna avere chiaro nella nostra mente che cos'è la consapevolezza. Mm, so we'll come to that in a minute. E tra un minuto ci arriviamo. And the final one is this combination of equanimity and investigating the Dhamma. E l'altra combinazione tra l'equanimità e l'investigazione del Dhamma. So if remember that equanimity is an attitudinal state. Guardate che l'equanimità è un stato attitudinale, cioè un atteggiamento, direi. It's about not coming from a place of I know what it's all about. È il fatto di non partire da una posizione del io so di cosa si tratta, io sono sicuro di ciò che faccio, di ciò che vedo. Mm. It's a very open-hearted, open-minded, radical acceptance. Quindi una accettazione radicale, molto aperta, di cuore e di mente. Mm. And with that attitude we then begin to investigate the Buddha's teachings. Con quell'atteggiamento cominciamo ad investigare gli insegnamenti del Buddha. So this includes all the teachings. Questo comprende tutti gli insegnamenti. So his teachings about right livelihood, about morality, about how we should live our lives. E sono insegnamenti sul modo di vivere una vita sana, sulla moralità, sul giusto stile di vita. But in our meditation it is specifically these three characteristics of existence. Ma nella meditazione si tratta di conoscere queste tre caratteristiche dell'esistenza. Now, you can see that the first six faculties have nothing to do with spiritual or religious practice, they're just natural to everybody. Vedete che queste prime sei facoltà non hanno niente a che vedere con la pratica spirituale, sono naturali per tutti. What turns it all into a spiritual faculty is the investigation of the Dhamma. Quello che lo trasforma in una facoltà spirituale è l'investigazione del Dhamma. Mm. So it's just knowing these things which occasionally may become helpful in our practice. È il fatto di conoscere queste cose che possono diventare utili nella nostra pratica. Right. But the Buddha makes it very, very simple for us. Ma il Buddha ci rende le cose molto semplici. Because he says, when we have right awareness, they're all there anyway. Perché lui dice, quando abbiamo la giusta consapevolezza, tutti questi fattori sono presenti comunque. So that's why we have to be clear about what right awareness is. Per questo ci deve essere chiaro che cos'è, deve essere chiaro in noi che cos'è la giusta consapevolezza. And here again, may I remind you of the child's face. E qui vorrei ricordarvi ancora di questo viso del bambino. The child coming from nothing, seeing something it's never seen before. Il bambino che viene da nulla, diciamo, e vede qualcosa che non ha mai visto prima. So remember, huh? The fixed eyes, the dropped jaw, the intense interest. E vi ricordate questi occhi fissi, la mascella che cade, questo interesse fisso. You see? That's it, that's enough. È questo, è sufficiente questo. Yes, you see? So in a sense we've just wasted 3/4 of an hour. In un certo senso abbiamo sprecato 3/4 di un'ora. So just running through those faculties again. Rivediamo queste facoltà. So remember, running underneath all this is a presumed conscious confidence. Quindi al di sotto di tutto questo, alla base di tutto questo, c'è questo senso di fiducia. And this confidence is activated and developed through reading and understanding, but also through devotion. Questa fiducia è attivata attraverso la lettura, la comprensione, ma anche la devozione. And this manifests in our commitment to the Buddha's teaching, to our practice. E questo si manifesta nel nostro impegno alla pratica e all'insegnamento del Buddha. And when I'm asked, you know, what does it mean to become a Buddhist? Quando mi viene chiesto, ma cosa significa essere o diventare buddista? You'll find that some Buddhists object to the word Buddhist. Alcune persone obiettano alla parola buddista. Because our faith is not in the Buddha, the real faith is in the Buddha Dhamma, the teachings. Perché la nostra fede non è nel Buddha, ma nel Buddha Dhamma, negli insegnamenti. And so one at the point where a person feels that the Buddha Dhamma is the center of their life. E questo arriva al punto in cui una persona sente che il Buddha Dhamma è il centro della propria vita. Where is the reference point to where everything else in their lives has to make sense? È il punto di riferimento intorno al quale tutto il resto delle cose nella vita devono trovare un senso. At that point the person may say to themselves, you know, I'm a devotee, I'm a committed follower of the Buddha Dhamma. E a quel punto uno può dire, io sono un devoto, sono un seguace del Buddha Dhamma. And it's usually at this point that a person would take the refuges and precepts as a ceremony. A questo punto che di solito le persone prendono i rifugi e i precetti come cerimonia. So just in my own case, I was practicing Zen, and after 2 years it just seemed to me to be the right thing to do. Per quanto mi riguarda, io praticavo lo Zen da 2 anni e mi è sembrata la cosa giusta da fare. It would be wrong to think of it as lifelong unless you committed yourself to that. Non sarebbe tanto giusto pensare che sia una scelta per la vita, a meno che uno non si prenda questo impegno. Like all vows, they only make sense when you renew them every day. Come tutti i voti hanno un senso quando vengono rinnovati tutti i giorni. So normally I leave this to the end of the week, but at the end of the week I give people an opportunity to take refuges and precepts, even for as little as a year. E alla fine del ritiro di solito do la possibilità alle persone di prendere rifugi e precetti e prendersi l'impegno per un anno di seguito. And just see if it works. E vedere se funziona. If it doesn't, you still don't get your money back. Non funziona, comunque non vi restituiamo i soldi. These two things, the confidence and the investigation of the Dharma and the growth of wisdom, questa fede, fiducia, investigazione del Dhamma e la saggezza, queste due cose, diciamo due aspetti, come se crescessero insieme. And when we have right awareness, we have the other six factors of enlightenment already there. Quando abbiamo la giusta consapevolezza, abbiamo anche gli altri sei fattori di illuminazione già presenti. Mm. The combination of concentration and effort. Quindi la combinazione di concentrazione e sforzo. Of, interest, which is an, it's a sense of wonder. E l'interesse, che è questo senso di meraviglia. Mm, it's a philosopher's motivation. È la motivazione di un filosofo. Mm. Or scientist. O uno scienziato. Mm. Combined with calmness. E questa è combinata alla calma. And the investigation of the Dharma, one can only really make insight if you're coming from that right position of equanimity. E questa investigazione del Dharma è combinata con l'equanimità, perché solo se c'è l'equanimità che uno può veramente penetrare nel Dharma. I can only hope my words have been of some assistance. Posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche aiuto. By your careful establishment of right awareness, attraverso la vostra attenta stabilizzazione della giusta consapevolezza, may you be liberated from all delusions. Possiate essere liberi da ogni illusione. And all sufferings. E anche da tutte le sofferenze. Sooner rather than later. Prima piuttosto che poi. No.